Viaggeremo vicino e lontano, nella parola, anzi nelle due parole, giustizia climatica, guardare alle questioni ambientali attraverso la lente dei diritti umani. E lo faremo attraverso il viaggio di diritto a resistere che assieme ad Alice Franchi mi ha portata nelle comunità, con gli attivisti, nelle aree diciamo più vulnerabili e in prima linea riguardo gli effetti della crisi climatica in Centro America, quindi attraverso gli stati del Centro America, dal Messico a Panama, tra foreste protette e distrutte, mari salvati o massacrati, le comunità indigene che lottano per la propria identità, per le proprie terre, i diritti delle donne, testimonianze di esistenza e di resistenza, parlando di quel diritto a resistere che è il diritto delle persone comuni di opporsi in maniera non violenta alle ingiustizie e che da qui all'Italia ci ha portato lontano per poi tornare a noi perché tutto è interconnesso. Dalle tue parole si capisce già che la lotta per la giustizia climatica è anche una lotta intersezionale, tu hai citato le donne che forse sono ancora più colpite. Assolutamente, sappiamo che i diritti delle donne, il rispetto dei diritti delle donne è uno degli obiettivi tra l'altro dell'Agenda 2030 perché è condizione indispensabile se vogliamo lottare alla crisi climatica. Le donne che sono spesso le più vulnerabili insomma a spostarsi nel caso di eventi estremi, più soggette a violenze di ogni genere, che si occupano di procurare cibo, della cura della famiglia, quindi sono più impossibilitate appunto ad andare lontano, ma anche che perdono il diritto all'istruzione e all'educazione perché se c'è meno acqua, se c'è meno cibo, se bisogna camminare di più banalmente per raggiungere il posto, il fiume più vicino, sicuramente tempo per la scuola ce n'è sempre meno. E qui un altro aspetto, quello dell'educazione, dell'istruzione, quindi il diritto di scegliere il proprio destino, se non sai ti fai del male da solo, mi raccontava una ragazza. Quindi l'educazione è uno strumento imprescindibile alla lotta alla crisi climatica, ed è proprio raccontando storie di donne, storie di ragazzi, storie delle comunità indigene che di questo vogliamo parlare e immergerci davvero nel presente, nel concreto, dalla teoria alla pratica, nell'esperienza e nel sapere che ne consegue. Ti faccio un'ultima domanda che riguarda un po' anche il contesto italiano, perché parlando di crisi climatica e di diritto a resistere, a volte c'è stata polemica anche su alcune forme di protesta come quelle di ultima generazione, però insomma evidentemente il tema della crisi climatica non viene preso troppo sul serio. Ma sicuramente non nei fatti, nelle parole ci stiamo poco alla volta avvicinando, anche se ogni tanto si ascoltano parole, non del tutto dichiarazioni non del tutto pertinenti, però nei fatti non stiamo andando abbastanza velocemente. L'Europa, che dovrebbe essere davvero all'avanguardia, davvero l'esempio per il mondo, sta fallendo su tanti obiettivi, per carità ne sta portando avanti altre. Quello che ci chiediamo appunto sul diritto di resistere dopo quello che abbiamo visto nelle Marche, a Ischia, in Emilia Romagna, dopo gli incendi che continuano a dilagare sulle nostre colline, le nostre montagne, le nostre isole, dopo questo inverno, dopo l'anno appena passato, il più caldo di sempre, questo inverno che continua a essere caldissimo, dopo tutta la diseguaglianza che aumenta, le guerre che dilagano, la violenza che impera, davvero non vogliamo cercare un mondo più giusto, più equo? Io credo che la responsabilità sicuramente nelle grandi scelte, ma anche nelle mani, nei passi di tutti, quindi questo diritto di esistere, di resistere, parte proprio da noi, da qui, dall'Italia, da casa nostra, per poi allargarci nel mondo.